America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. I come to the job with an open mind, with my ability to manage and to draw resources and willingness to contribute from all. Not going to second guess, I'm going to ask questions. Christine Lagarde, nuovo direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha debuttato ieri. Sono venuto nella capitale americana proprio, fra le altre cose, per incontrarla, per vedere la sua conferenza stampa, il suo debutto, che avviene in un momento molto particolare, perché è il momento in cui il suo predecessore Dominique Strauss-Kahn sta per essere scagionato, nel momento in cui il problema del debito internazionale in generale sembra tornare ad essere esplosivo. E proprio di debito ha parlato Christine Lagarde, ha incoraggiato la Grecia a prendere le misure necessarie e ha annunciato che venerdì, cioè domani, ci sarà un incontro al fondo proprio per discutere di Grecia. Ma non sono venuto qui a Washington solo per la Lagarde, sono venuto anche perché il presidente americano Barack Obama ha deciso di tenere il suo primo town hall meeting su Twitter. Twitter, molti di voi lo conosceranno, è un sito internet dove alcune persone seguono delle altre persone e ci si tiene collegati attraverso dei messaggi molto brevi, dei tweet, dei cinguettie appunto, perché poi Twitter sta per cinguettio, messaggi attraverso i quali si formano poi delle comunità e vi ricordo che è stato proprio Twitter all'origine della primavera araba. Ebbene, il presidente Obama ha deciso di tenere questo incontro. Ha ricevuto negli ultimi giorni nell'indirizzo Ask Obama 169.395 domande. C'erano quattro tematiche principali: 18.957 sull'occupazione, quindi al numero uno, sul bilancio 15.000 domande, sulle tasse 14.777, sull'educazione 8.833. L'argomento, devo dire, che mi interessa di più in questo momento è quello del bilancio, non fosse altro perché proprio oggi, fra poche ore, il presidente Barack Obama riceverà 8 rappresentanti del Congresso, 4 democratici, 4 repubblicani, per cercare di risolvere l'impasse sul disavanzo pubblico, sui tagli al disavanzo pubblico e immediatamente di conseguenza per cercare di innalzare il tetto sul debito. E dunque ascoltiamolo, il presidente americano su Twitter, che tipo di cinguettio ci ha dato. My expectation is that over the next 2 weeks that Congress, working with the White House, comes up with a deal that solves our deficit and makes sure that our full faith and credit is protected. Ecco, Obama affronta qui proprio la questione del debito e dice molto chiaramente qual è la radiografia della situazione. Quello che sta succedendo, dice, che il Congresso potrebbe non votare l'innalzamento del tetto sul debito. In questo caso il Tesoro non avrà più soldi per pagare le spese, i debiti contratti. Potenzialmente il mercato finanziario mondiale potrebbe dire: sai che c'è? Gli Stati Uniti non sono affidabili, i nostri crediti potrebbero essere declassati, i tassi di interesse salire alle stelle, e questo può causare una spirale, dice Obama, che porterà a una recessione peggiore di quella che abbiamo vissuto dopo la crisi finanziaria del 2007-2008. Quindi io mi aspetto che entro le prossime 2 settimane il Congresso e la Casa Bianca si mettano d'accordo su una soluzione del problema del debito che salvaguardi l'affidabilità degli Stati Uniti nei confronti dei suoi debiti. E lo scenario che prende corpo e di cui si discuterà oggi è uno scenario in cui Barack Obama confermerà molte concessioni su tagli alle spese sociali, alla spesa sanitaria per gli anziani, all'assistenza sanitaria per i più poveri. Si calcola che possano essere tagliati circa 500 miliardi di dollari da qui ai prossimi 10 anni, a partire dal 2013. Ci sono altri 300 miliardi di dollari che verranno da tagli di altre sovvenzioni, per esempio sovvenzioni all'agricoltura, sovvenzioni per i prestiti per i giovani che vogliono andare all'università, insomma una serie di sacrifici. Obama chiede una contropartita sul piano delle tasse e bisognerà vedere come va a finire questa storia. Io sono convinto che alla fine si metteranno d'accordo, perché non è pensabile immaginare che gli Stati Uniti vadano in fallimento per un braccio di ferro politico. We will never balance the budget and rid our nation of debt unless we cut spending and have real economic growth. Questa era la voce di Boehner, John Boehner, il capo dell'opposizione, il presidente della Camera, la nemesi di Barack Obama. Una provocazione su Twitter, beh, è venuta proprio da John Boehner. Anche lui ha mandato una delle 169.000 domande al presidente. Gli ha chiesto: caro mio, dove sono i posti di lavoro? Beh, Barack Obama se l'è cavata, diciamo così, per un pelo, perché ha ricordato che il pacchetto di stimoli dell'economia americana ha contribuito non soltanto alla creazione di circa 1,5 milioni di posti di lavoro, ma ha contribuito alla difesa di 3,5 milioni di posti di lavoro che sarebbero spariti senza quel piano. Ovviamente in politica ognuno può dire quello che vuole. Oggi però, e qui condivido il pensiero di Barack Obama, non si potrà più scherzare, perché da qui al 2 agosto il tempo stringe. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Eminem ha messo a segno un nuovo record, il suo 7° album Recovery è diventato il primo disco nella storia ad aver venduto oltre 1 milione di copie digitali. E dunque di Eminem ascoltiamo Not Afraid. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.